Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, dopo il clamoroso sorpasso pre-pasquale, adesso tocca alla Juventus e non più al Milan l'obbligo di non sbagliare. Con tutta la pressione in più che questa situazione comporta, ma anche con la consapevolezza che vincendo sempre gli altri non possono più farci nulla. Già, ma gli altri sino a che punto sono a loro volta in condizione di continuare a tenere il fiato sul collo alla Juventus? È una domanda legittima già da stasera per Chievo-Milan, cui i rossoneri si presentano davvero ai minimi termini, con un terzino debuttante, De Sciglio, una serie di giocatori recuperati per miracolo, ma 13 assenti e per la cronaca 3 squalificati e 10 infortunati, anzi 11 perché Ambrosini rientra in entrambe le categorie. Ci arriviamo più tardi, dopo le congratulazioni a Michele che mi scrive di aver fatto un 12 sabato al Totocalcio da 6.300 euro, questa è una buona notizia anche perché significa che il Totocalcio ancora esiste e lotta insieme a noi. Ci arriviamo più tardi perché il martedì, come sapete, è dedicato al calcio internazionale, non vorrei assolutamente perdere le buone abitudini, non solo perché campeggia in assoluto il caso Balotelli, ma perché oltre a quello italiano ci sono tutti gli altri campionati che contano e sono arrivati alla stretta finale, riaperti o si stanno richiudendo o hanno il big match. Fabio Tavelli, bentornato. Grazie Gigi, grazie, buongiorno a tutti. Senti, come primo giro d'orizzonti diciamo, volatona in Francia col Paris Saint-Germain che ha battuto il Marsiglia il giorno di Pasqua e sì, ha risposto al Montpellier che aveva vinto prima col Digione. Poi Spagna con il differenziale che si è ridotto, con il Barcellona meno 4, con il Real che ha perso qualche punto ultimamente, si è aperto invece in Inghilterra perché lo United è andato via, più 8, c'è ancora lo scontro diretto lì come c'è ancora in Spagna, e mentre invece la Germania si decide tutto, credo, domani in Borussia Dortmund, Bayern di Monaco. Senti, partiamo da lì Fabio, perché Borussia Dortmund, Bayern di Monaco, 3 punti di vantaggio per il Borussia alla vigilia di questo scontro diretto sul suo campo. Allora, ha comunicato proprio a voi, a Sky Sport, il direttore generale del Borussia di Dortmund, a fronte degli 80.000 posti di cui dispone lo stadio, che non è proprio piccolino, di aver ricevuto 450.000 richieste di biglietti. Sì, è qualcosa di pazzesco, è una partita che ferma la Germania ed è un match point serio sulla racchetta del Borussia Dortmund, che ha vinto già la gara d'andata, fu un 1-0 per la squadra di Klopp. È una squadra che è in salute, è una squadra che sta bene, è una squadra che sta meglio, credo, del Bayern di Monaco, per quello che ho visto il Bayern di Monaco nell'ultimo turno di campionato, anche se è possibile che il Bayern stia preparando proprio questo, e cioè nel giro di poco ha il Borussia Dortmund ed è decisiva, e poi ha il Real Madrid in Champions League, quindi ci può anche stare che la partita scorsa contro l'Augsburg non abbia giocato granché, però complessivamente il Borussia Dortmund sta molto bene, ha 2 risultati su 3, se vince va a più 6, ma di fatto diventa a più 7 perché avrà il vantaggio dello scontro diretto, e quindi io credo che la Bundesliga possa finire mercoledì, oppure al contrario invece diventare accesissima fino alla fine, perché nel caso contrario, cioè vincesse il Bayern di Monaco, bisogna vedere con che scarto, ma il Bayern di Monaco potrebbe andare in testa alla classifica e quindi giocare da capolista le ultime giornate. A me pare che la svolta più in attesa, al pari di quella italiana, sia quella spagnola, perché il Real 4 settimane fa aveva 10 punti di vantaggio, il campionato era chiuso. Adesso con 4... mi pare che abbia una partita non facile sin da domani, e poi sì, il prossimo sabato c'è il match clou. Guarda, Guardiola ha detto 2 cose. Ha detto che non è possibile rimontare 10 punti al Real Madrid. Io credo onestamente che lui abbia ragione, anche perché non ho visto il Real Madrid in difficoltà. La partita col Valencia è stata bellissima. Il Real avrebbe anche potuto perderla, ma avrebbe potuto anche stravincerla. Ed è finita 0-0, cosa che non accade quasi mai quando gioca il Real Madrid. Dicevo, il Real non sta male, perché il Real prima di pareggiare 0-0 contro il Valencia aveva vinto 2 partite 5-1, una in casa e una fuori, tra l'altro neanche partite facilissime. Prima ne aveva pareggiate un paio, e quindi di fatto nelle ultime 5 partite il Real ne ha vinte 2 e ne ha pareggiate 3, che non è uno score da buttare via, ma è uno score al quale il Real Madrid non ci ha abituati. Questo costringerà il Barcellona certamente a vincere lo scontro diretto, e Guardiola ieri ha detto in conferenza stampa che non è matematico che noi vinceremo sempre contro il Real Madrid, però Barcellona cominciano un pochino a crederci, e poi comunque non le basterà, dovrà sperare a quel punto semplicemente che il Real ne pareggi una, ma il Barcellona dovrà vincerle tutte, perché comunque se il Barcellona vuole essere competitivo fino in fondo deve vincere lo scontro diretto, e avendolo già vinto all'andata certamente avrà il vantaggio del doppio confronto. Aggiungo anche una cosa che ha detto Guardiola ieri in conferenza stampa, ha detto: noi negli ultimi 4 anni, in 3 degli ultimi 4 anni, abbiamo giocato il 100% delle partite possibili, cioè hanno giocato tutte le partite perché sono andati in finale in tutte le coppe nelle quali hanno giocato, più tutte quelle di campionato. Quindi se sono esseri umani potrebbe anche essere che prima o poi un po' la paghino, anche perché giocano sempre loro. Sì. E questo è un dato che secondo me Guardiola sta cominciando a considerare, cioè il fatto che questa squadra, con tutte queste partite nelle gambe, possa prima o poi anche avere un calo. Il calo l'ha già avuto, perché già quello visto contro il Milan in entrambe le occasioni non era certamente il miglior Barcellona. Poi c'è chi continua a dire che per il campionato spagnolo questo basta e avanza, come se noi invece avessimo un grande campionato e in Spagna giocassero le pipe, no? Come è dimostrato dalle coppe europee, perché mi pare, se non ho sbagliato i conti, che su 8 semifinaliste tra Coppa Campione e Europa League 5 squadre sono spagnole. Ma noi come è normale, ma perché è più facile guardare nel proprio giardino che in quello d'altri, abbiamo una visione un po' distorta da questo punto di vista. È ovvio che Real Madrid e Barcellona fanno più o meno quello che vogliono in Spagna, ma ci sono partite nelle quali anche queste fanno fatica. Ripeto, ci è voluto un grande Casillas e 2 pali per dare al Real Madrid comunque un punto contro il Valencia. Poi il portiere Guaita del Valencia ha fatto di tutto, ha fatto delle grandi parate, però i portieri ci sono, sono lì anche per questo. E il Barcellona è andato sotto a Saragozza. Quindi non è sempre una passeggiata, anche se poi i punteggi a volte lasciano immaginare che quella sia sempre una scampagnata di Pasquetta per gli spagnoli, ma non è sempre così. Ma no, ma difatti, per carità, d'altra parte le due più forti che strastaccano tutte le altre ogni anno sono in semifinale di Champions di Coppa Campioni, però Valencia, Atletico Bilbao e Atletico Madrid in semifinale dall'altra parte, nell'altra coppa, insomma, se noi avessimo, che ne so, la Roma di Bitucchi. Sì, Roma-Lazio, se Roma-Lazio e Napoli fossero in Europa League. In semifinale noi oggi staremmo cantando, e avessimo Milan e Juventus, per esempio, o Inter e Milan, o Inter e Juventus, in semifinale di Coppa Campione staremmo dicendo che il calcio italiano sta dominando il mondo, no? Ma se per caso... Anche con molto meno. Ecco, se succede agli spagnoli, ma no, ma quello è un campionato minore, quindi. Va bene, allora prepariamoci subito dopo l'intervallo al caso Balotelli, prima con un breve sintetico racconto di che cosa è accaduto domenica sul campo 2 giorni fa, sul campo dell'Arsenal, e poi con le conseguenze e le proiezioni, le prospettive possibili, anche attraverso un paio di buone letture. Che Balotelli divida lo si ricava anche dai commenti. Io ne ho 2 sotto gli occhi, uno di Gabriele Romagnoli su Repubblica, che è colpevolista, e uno invece firmato Fabio Cavalera sul Corriere della Sera, che è innocentista. Ma partirei dai dati di fatto, Fabio. Che cosa in sintesi ha combinato esattamente Balotelli nel pomeriggio, tardo pomeriggio di domenica? Tutto preceduto da notizie di auto sfasciate e di escort frequentate, ma queste sono cose che a noi francamente non interessano. In campo lui ha giocato male, la prima cosa che mi viene da dire è che lui ha giocato male questa partita, perché poi lo ricordiamo in pochi, il Manchester City ha perso meritatamente contro l'Arsenal e Balotelli ha giocato male. Balotelli al 19esimo avrebbe potuto mandare all'ospedale un giocatore dell'Arsenal, Song, reo, temo, nella testa di Mario di aver fatto un fallo a Yaya Touré e di aver costretto Mancini a cambiare Yaya Touré, un fallo veramente proiettorio, brutto, a martello, una roba brutta. Per fortuna Song alla fine non si è fatto niente. La curiosità è che l'arbitro Atkinson non ha neanche fischiato fallo in questo intervento, che era da rosso diretto. Ecco, allora facciamo un primo intervallo. Noi siamo sempre pronti a gettare la croce sugli arbitri di casa nostra. Io mi chiedo come questo Atkinson possa continuare ad arbitrare in Inghilterra dopo non aver espulso al volo Balotelli l'altro giorno per questa entrata killer sulla tibia di Song, ma anche alla luce del fatto che lo stesso Atkinson è lo stesso arbitro che 2 anni fa, mi pare, o qualcosa del genere, non fischiò fallo nemmeno quando De Jong, compagno di squadra di Balotelli, cioè predecessore di Balotelli, ma c'è ancora anche adesso al City, spezzò la gamba a Ben Arfa. Non fischiò fallo allora, non ha fischiato fallo adesso, ma che cosa ci sta a fare questo signore in campo, ma con un fischietto in bocca? Che stiamo parlando di un arbitro che è pronto per altri sport, sì. non certo per il calcio, perché ci si può sbagliare sulla gradazione del colore di un cartellino, ma neanche fischiare punizione con un pazzesco precedente del genere, pazzesco, con un intervento pazzesco evidentissimo. Siamo fuori dalla... Cioè il primo dove stare a casa è Atkinson. Il primo dove stare a casa è Atkinson. Dopodiché Balotelli fa questo fallaccio, viene risparmiato, viene appunto sì risparmiato dall'arbitro, e cosa fa nel proseguo della partita? E fa un paio di falli di quelli pesanti, questa volta su Sagnà, ne fa uno sullo 0-0 alla mezz'ora del primo tempo, ne fa un altro su... sempre su Sagnà al 90esimo con il City in quel momento sotto di un gol, e viene cacciato dal campo, viene espulso, e Mancini nel corso della conferenza stampa e poi anche in un'intervista con noi ha detto se lui non cambia la sua carriera può finire nel giro di 2-3 anni, probabilmente in estate lo venderò e certamente non giocherà più una partita nel City da qui alla fine della stagione, ne mancano 6. La sensazione è stata che la squalifica gliela desse immediatamente Mancini, sì. Ma da fonti che arrivano dall'Inghilterra sembra che Mario possa prendere addirittura 9 giornate per questo intervento. Bene. Che sarebbe la somma delle giornate per l'espulsione più la prova televisiva, perché a questo punto è evidente che Atkinson sta guardando altrove e quindi è applicabile la prova televisiva per l'intervento su Sagnà, quindi sarebbero addirittura 9 giornate. Questo vuol dire che non vedremo più Mario Balotelli in Premier League, credo, nella sua carriera. Nella sua carriera. Senti, c'è una sequenza che a me mi ha fatto molta impressione, ed è la sequenza in cui Balotelli, che viene espulso dall'altra parte del campo rispetto al, chiamiamola, sottopassaggio, insomma comunque al punto d'uscita, Balotelli con la sua squadra che sì, sta perdendo, manca un minuto e mezzo o due alla fine, il pareggio servirebbe a poco, ma insomma comunque no, ci si prova. Balotelli traversa il campo a passo d'uomo in maniera provocatoria, direi, come se la sua squadra stesse vincendo, arriva, traversa in faccia a Mancini che è in piedi all'aspetto, quando Mancini ce l'ha a 20 metri gli urla, purtroppo non si vede il... perché Mancini è preso di spalla, gli dice ma muoviti, ma gli fa un gesto veramente ma muoviti eccetera, e possiamo immaginare, e allora questo si degna di corricchiare lentamente guadagnando quei 3 secondi per arrivare all'uscita, la cosa no, non so sì, quante sì, volte è chiaro che non è calcisticamente che Mario ha delle lacune, purtroppo anche certo. Questo però in questo mettiamoci che in quel momento con tutti i tifosi dell'Arsenal che gli esibivano un cartellino rosso, che poi Massimo Marianella ci ha detto che è il contenitore dell'abbonamento, che è rosso di colore, quindi non è che i tifosi dell'Arsenal si portino un cartellino rosso sempre con loro. In quel clima io credo che lui già ci capisse poco in un clima normale, e lì ha finito per capirci ancora di meno, certo. Quindi ha peggiorato ulteriormente. Insomma, una pagina che si chiude in maniera abbastanza ingloriosa, veramente ingloriosa, e purtroppo sì. Che poi è una pagina evidentemente non nemmeno semplicissima da capire. Se leggo l'ultimo messaggio arrivato, Luca da Venezia dice: ma non era lei che dava dei razzisti a quelli che in Italia fischiavano Balotelli? Ma guardi, Luca, che io continuo a dare degli imbecilli anche a quelli che non capiscono la sottile distinzione che esiste tra la critica a un giocatore purtroppo disadattato, perché se non fosse un disadattato avrebbe un talento che oggi al mondo pochi giocatori hanno, che non colgono la differenza tra la critica, ripeto, a un giocatore che si comporta male e invece... l'aggressione a prescindere dal colore della pelle, però è dura. Tranquillizziamo l'ascoltatore, qui tracce di razzismo non ce n'erano, mamma, proprio per niente. Anche perché mi sembra che non sia l'Inghilterra davvero, no? Il posto in cui. Fabio, leggo e poi chiudiamo questo appuntamento di oggi, perché vedo molte sollecitazioni ad arrivare al campionato di casa nostra. Leggo che, va bene, voi siete anche abituati a Sky Sport 24, insomma tra tante cose belle ogni tanto vi tocca anche qualche procuratore. Non so se ci sia già stato Raiola di turno. C'è stato 2 sere fa. Perché leggo che sulla base di, non so, 50-60 milioni di euro, Balotelli potrebbe scatenare un'asta tra Inter e Milan. Ora io mi ricordo che Gianni Brera ogni tanto, quando era in vena, definiva le due società di Milano le barche dei coglioni. Però credo che ci siano dei limiti poi anche a... No, sono queste sono cifre assurde, non non stiamo parlando di questo. Balotelli andò al City per 23 milioni più bonus e la cifra sarà tra i 15 e i 20, non di più. Molto bene. Fabio, grazie per questo collegamento. A te Gigi, saluto a tutti. A presto, buon ritorno al microfono di Sky Sport 24, perché è questione di pochi minuti. Tra poco i vostri interventi. Io volevo prima darvi la sensazione tangibile di come un caso come quello di Balotelli divide. Allora sentite questo, secondo me, stupendo attacco di Gabriele Romagnoli su Repubblica di oggi, la sua rubrica del martedì, che tra l'altro, voglio dire, indipendentemente poi dall'idea, è un piacere leggere per normali ragioni di penna. Quanto può durare la pazienza di un padre, naturale, adottivo o putativo? Al cronometro di Roberto Mancini il tempo è scaduto. Nella scena madre, sul palco di un lontano stadio inglese, guarda il suo figlioccio Mario venirgli incontro dopo l'ennesima espulsione, con quel fisico che è un dono del cielo, quella cresta che è la colpa di un barbiere, i gesti a indicare come sempre la responsabilità di qualcun altro, e dice semplicemente basta. È una piccola tragedia in tre atti. Balotelli, che cerca rifugio nelle braccia di chi l'ha sempre accolto, Mancini che invece di aprirle le usa come le sbarre d'un passaggio a livello, Balotelli che si allontana sputando. C'è qualcuno che ti ha amato quando eri nessuno, se ti scarica ora che sei qualcuno tu sei davvero nei guai. Questo non è il genitore naturale che ti ha abbandonato e ti viene a cercare quando sei famoso. È quello putativo che famoso ti ha reso e non ne può più di quello che hai fatto della tua fortuna. Dovevi qualcosa a lui e a te stesso. Non c'è ancora nessun ascoltatore collegato? No, perché io stesso ho chiesto di passarli subito dopo l'intervallo. E allora sentiamo come Allegri si immagina che possa essere la serata veronese del Milan. Sempre immagino gli scongiuri milanisti, perché Verona è stata già in due circostanze una tappa esiziale per il Milan, certamente mi pare fossero il 73 e il 90, e questo 2012 ha tutta l'aria di potergli assomigliare. Sentiamo Allegri. No, io preferivo stare davanti, così no, in questo momento non è, però questo non vuol dire che tutto è finito, come sento dire, anche perché abbiamo un punto in ritardo alla Juventus, credo che prima di sabato la Juventus avesse due punti in meno di noi, il campionato era ancora lungo, era lungo prima per noi quando eravamo in testa e sarà lungo per la Juventus ora che sono in testa loro. Mancano 7 partite, ripeto, nel campionato può succedere di tutto. È vero, può succedere anche che Luis Enrique si arrabbi, no? Io dico, trovo abbastanza curioso che non siano gli altri a arrabbiarsi con lui, perché ogni volta che la Roma si presenta fuori casa è sempre più impresentabile della volta precedente, però Luis Enrique dal suo punto di vista ha ragione a difendere il suo lavoro. Sentiamolo stamane. Se volete massacrarle, non c'è nessun problema, o sea, qui il colpevole di tutto questo sono io, che sono l'allenatore, e quella è la mia responsabilità, me la prendo io. Per favore, smettere di contare queste bugie di che si litigano nello spogliatoio, di che si fanno, è tutta una bugia, non so chi ha l'interesse, non mi interessa, ma per favore smettere di dire queste tonterie in spagnolo, mamma mia, lasciate lavorare in pace, quello è tutta una bugia, se lo dico ai tifosi, devono essere tranquilli, arrabbiati quando giochiamo male, purtroppo lo facciamo giorno sì, giorno no, giorno sì, non siamo regolari, ma questi ragazzi si comportano come persone, si comportano come professionali, si comportano in un modo ottimo, lo vedo ogni giorno e quello lo dico a testa alta. Povero Luis Enrique, le prese con le tonterie dell'ambiente romano e romanista, dove è difficile tirare avanti quando le cose vanno bene, figurati quando ci vuole il pallottoliere per i risultati, in particolare fuori casa, anzi per la verità quasi soltanto fuori casa. Torniamo in onda mentre mi sto... No, per la verità, andiamo per parità di trattamento. Allora, vi ho letto lo stupendo pezzo di Gabriele Romagnoli, per il mio, sulla questione Balotelli. Potrei anche continuare, anzi me ne viene la voglia, ma perché vale davvero la pena. Ma prima prima per, ripeto, parità di trattamento, la tesi invece di Fabio Cavalera, sostenuta sulle pagine sportive del Corriere della Sera. D'accordo, Mario Balotelli ne ha combinate parecchie. Quando la sua testa va in cortocircuito, la goliardia stupida e l'emotività prendono il sopravvento e il giovane campione si trasforma nel ragazzino cattivo senza freni. Una volta per tutte, però, è il caso di cambiare registro e di cominciare a stare dalla parte del finto bad boy, espatriato alla ricerca di tranquillità, ora respinto con le maniere brusche. Il calcio inglese è entusiasmante, vero, ma è uno star system pieno di prime donne maleducate. Lo sono schiere di giocatori idoli, protagoniste di cronache volgari, lo sono i dirigenti che sperperano soldi per bidoni cosmici, lo sono certi giornalisti che hanno la presunzione di essere maestri di etica sportiva ed extrasportiva. Non è il paradiso, è un circolo esclusivo il calcio inglese, che sopporta a fatica l'anomalia Balotelli, un'anomalia italiana. Balotelli non ha il marchio inglese DOC e nulla gli è perdonato. In campo si vedono fallaci assai peggiori delle balotellate, ma è gioco maschio. Le caviglie di Balotelli sono lisciate dagli avversari, ma è lui che è scorretto. I compassati telecronisti invocano sanzioni. I colleghi di Balotelli si trasformano in santi predicatori, da quale pulpito arriva il fervorino. La caccia è in corso, il bersaglio è facilissimo. La verità è che il calcio inglese non ha migliorato Mario Balotelli per il semplice motivo che il calcio inglese non è migliore di Mario Balotelli. Anzi, solo che ammetterlo è un'eresia. Massimo da Venezia, buongiorno. Buongiorno Garantini. Dica. Io, siccome non sono più giovanissimo, ricordo con rammarico quando i giocatori eccentrici erano Gigi Meroni o Gianfranco Zigoni. Che effettivamente erano delle educande. Sì, poi Zigoni non era poi molto, molto meno matto di Balotelli. No, non molto meno. Ha avuto anche una carriera diversa. Ma è il fatto che Balotelli riesce a far sembrare Cassano un filosofo, un vecchio saggio, cioè è riuscito in un'impresa. Sì, veramente. E io sono anche stanco, per quello che può valere, di questa indulgenza continua e del fatto di sentire che questa persona viene ancora contesa da società che pensano di investire su di lui ancora milioni di euro. È grottesco, è surreale, onestamente. Cioè, nessuna persona al mondo, in un ambiente di lavoro qualunque, avrebbe tutte queste possibilità. Al di là di quello che ha letto lei prima dell'articolo del Corriere della Sera, che trovo sinceramente superfluo a questo punto. Io non ne condivido nemmeno una virgola, soprattutto non ne condivido la tesi, cioè che il calcio. Io non adoro il calcio inglese, per l'amor di Dio, non penso che sia. Che sia il paradiso terrestre del calcio, non l'ho mai pensato, ma insomma non è poi dire che il calcio inglese non è migliore di Mario Balotelli, credo che questo nemmeno Mino Raiola, oppure forse sì, Mino Raiola sotto qualche effetto potrebbe sostenerla come tesi, ma insomma tutte le tesi sono accettabili. Massimo, grazie, andiamo a Napoli da Antonio, buongiorno. Sì, buon pomeriggio Granzini. Dica. Io praticamente credo che sia da citare in questo caso un grandissimo ex giocatore come Vialli, a proposito degli arbitri, perché Vialli una volta disse, me lo ricordo bene, che gli arbitri dovrebbero essere degli ex giocatori. E io a questo punto, vedendo come vanno le cose con gli arbitri in tutto il mondo, tra l'altro Vialli ha giocato anche in Inghilterra, credo che Vialli ebbe ragione quando disse questa cosa, perché soltanto ex giocatori possono davvero capire determinate azioni, seguire bene tutte le fasi del gioco. Io penso che soltanto non sia vero, perché ci sono fior di arbitri che tecnicamente hanno tutti i parametri in ordine per valutare al meglio. Certo, ce ne sono alcuni che evidentemente un calcio al pallone non l'ha mai tirato e che non sono in grado di valutare, per esempio, la gravità di questi episodi. Questo Atkinson rimane in linea, che ha messo giù, mi dispiace, mi scusi, volevo soltanto andare avanti su questo ragionamento e poi tornare a confrontarmi con lei. È gravissimo che uno stesso arbitro commetta questo stesso errore su un episodio di tale gravità. Cioè, quando si entra a piede teso e a piede alto in direzione del ginocchio o della tibia, comunque della tibia parte superiore dell'avversario, in ritardo e lasciando andare la palla, non è che ci possono essere degli equivoci, no? Cioè, ci possono essere delle speranze di non rompergli la gamba. Infatti a Young è andata benissimo, a Song è andata benissimo l'altro giorno. Ogni tanto va bene, il, il più delle volte va male e tu ti ritrovi a farti i 60, i 90 giorni di gesso, perché? Perché in quel momento Balotelli, essendosi toccato la palla lunga, perché in realtà non è partito per fargli male prima, è partito per il fatto che essendosi toccato la palla lunga ed avendolo questo intuito, beh, insomma, il piede glielo metto alto sulla tibia così impara e poi succede quello che deve succedere. Jorge ha chiamato da Siena, buongiorno. Buongiorno, dottor Caranzine, grazie per darmi l'opportunità di esprimere dal mio parere. Jorge, ne faccia buon uso e non dica tonterias. No, ma lo dico solo perché mi è piaciuta molto quell'espressione prima di Luis Enrique. Dica. Ascoltami, 20 anni fa mi ricordo un paesano, Faustino Strilla, no? Sì. Che lui la combinava ogni tanto dentro e fuori del sì. campo e gioco. Sì. E lui veniva da un stato povero, un stato umile, e ogni tanto aveva questo atteggiamento perché lui, questa situazione, no? Povertà e cosa. Dopo, se non la combinava dentro il campo di gioco, la combinava in discoteca, per strada, perché umiliava, perché era famoso, perché l'estratto era così. Prima non era nessuno e poi diventò famoso, però Asprilla purtroppo era uno di quelli come Balotelli, no? Certo. Era quello che voleva dire, mi ricordo tantissimo, 20 anni fa che lo ha conosciuto più di me Faustino Asprilla, no? Era uno di questi personaggi, no? Grazie, dottor Granzini, l'ascolto per radio. Grazie a lei. Invece c'è qualcuno che si ricorda di Faustino Asprilla, signor giocatore, poi non con i numeri di Mario Balotelli che è ancora superiore, cioè potenzialmente è ancora superiore, anche se Asprilla era un grande giocatore, sicuro. Però è interessante. Sentite cosa può accadere su un display di Radio 24 che registra i vostri SMS dopo una dozzina d'anni abbondante che sono qua e evidentemente ho sviluppato, come dire, un minimo di sesto senso per sentire magari in qualche circostanza puzza di bruciato. Lo dico a beneficio di quegli ascoltatori che ogni tanto si lamentano e scrivono: ma perché non legge mai i miei messaggi? Perché, cari ragazzi, il display, purtroppo essendo aperto, viene anche infestato spesso e volentieri, e quindi bisogna provare a distinguere, naturalmente sempre parlando con voi in diretta o ascoltando quello che dite, cosa non semplicissima, e tenendo d'occhio anche le agenzie. Ma non vi sto dicendo quanto è difficile stare questo, vi sto leggendo 4-5 messaggi arrivati nel giro di 7-8 minuti. Allora, però il Milan ha gli arbitri dalla sua parte, firmato Enzo da Chiavari. La Juve è più forte del Milan, punto e basta, firmato Matteo da Foggia. La Juve è più forte e merita di vincere il campionato, firmato Stefano da Rovigo. Ce n'era un altro ancora che adesso non riesco a vedere. C'è Iepes che sta cercando di convincere gli ex compagni del Chievo a perdere stasera ed è firmato Gianluca. Poi ce n'è forse ancora qualche altro verso l'alto, adesso li cerco perché ormai già che ci siamo, però non riesco a trovarlo, non ha molta importanza. In ogni caso ho chiesto al centralino, dato che io non lo posso fare da qui per ovvie ragioni di privacy, di dare un'occhiata alla provenienza di questi messaggi. Per pura combinazione questo imbecille, che una volta è di Chiavari, una volta è di Foggia, una volta è di Chiavari, è la stessa persona, perché i messaggi vengono inviati dallo stesso cellulare. Ora, se un giorno o l'altro saremo costretti, evidentemente questo programma come gli altri, a rinunciare agli SMS, sarà un triste giorno, perché questo è un eccellente modo di comunicare in tempo reale e di darti anche il termometro della trasmissione. Però sarà una rinuncia amara, ma sarà una rinuncia motivata da chi? Ripeto, dal fatto che, come dicevano Fruttero e Lucentini, esisterà sempre nel mondo la prevalenza del cretino. Matteo dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini, intanto questo che ha mandato tutti gli SMS sicuramente non è uno scienziato. No, ecco, probabilmente no. Probabilmente no. Comunque io volevo parlare di Balotelli. Quando si parla di lui, diciamo, sì, si dice sì Balotelli, e poi c'è sempre l'appendice della sua vita privata, delle ragazzate, delle macchine distrutte, così. Io parlerei prevalentemente del calciatore. Il calciatore com'è? È un ottimo giocatore, un ottimo prospetto, ma Ultimamente, cioè ultimamente da quando gioca, a volte risolve le partite, a volte ti lascia in 10, quindi non so quanto sia funzionale per gli europei di quest'estate, ma visto la pochezza dei centravanti italiani, Pratelli sarà quasi costretto a chiamarlo come il figlio il prodigo, perché è l'unico che magari ti può risolvere una partita, ma ti può lasciare anche in 10 dopo mezz'ora. Quindi... Guardi, mi scusi, lei ha letto Repubblica stamane? No. No, allora le leggo come finisce quell'articolo, insisto, splendido di Gabriele Romagnoli dedicato a Balotelli. Finisce proprio così, io ve ne ho letto una parte prima, e scrive: Balotelli andrà verso altre braccia per riscrivere la stessa storia. Prandelli si consuma al bivio tra lo spettacolo e la morale, il bisogno di imprevedibilità e il timore che sia invece tutto così scontato. È azzardabile un pré-javu. Balotelli segna un gran gol con la Spagna e poi nella partita successiva, infastidito dalla gloria, se la toglie di dosso facendosi espellere. Vede che adesso capisce perché le ho chiesto, dopo il suo intervento, se per caso aveva letto l'ottimo, come sempre, Gabriele Romagnoli. È il momento della rubrica di Nicola Filippone. Vediamo che cosa è accaduto in un 10 aprile. Sembra ieri. Il problema è che vi accontentate della mia voce oggi, perché Nicola Filippone ha avuto un problema di registrazione. Mi ha mandato il testo, che è il seguente. Il Milan, 10 aprile 74, il Milan batte 2-0 il Borussia di Mönchengladbach con gol di Bigon e Chiarugi nella semifinale randata di Coppa delle Coppe. Quindi parte con il piede giusto il nuovo allenatore rossonero, che si chiama Giovanni Trapattoni, ed è la sua prima panchina ufficiale. Trapattoni, che aveva preso il posto di Cesare Maldini, riuscirà a portare il Milan alla finale di Rotterdam, dove però Rivera e compagni si arrenderanno al Magdeburgo. Torniamo regolarmente in onda, grazie anche oggi a Nicola Filippone per questo Marcord. Tocca a Marco da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie. Niente, in merito al giornalista della Repubblica, io non leggo Repubblica, però il suo discorso non fa una piega e sottoscrivo in pieno. Quello che dice il Corriere invece è a questo punto tutti quelli che, a parte che Balotelli ha giocato anche in Italia, già dimostrato, dicendo quello che dice, allora tutti i giocatori inglesi dovrebbero comportarsi come Balotelli. Il problema è che, con tutto il rispetto, Balotelli secondo me ha dei seri problemi comportamentali, dovrebbe essere seguito da uno psicoterapeuta, credo, senza offesa, anzi. No, senza offesa, semmai nel suo interesse. Ecco, l'unica cosa è che questo atteggiamento, al di là del calcio, secondo me fa male proprio alla società, perché ci sono ragazzi che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera, anche laureati, che non trovano lavoro, e hanno come riferimento dei giovani, dei calciatori bravissimi, ma anche dei calciatori come Balotelli, che, per l'amor di Dio, io non mi sento di insultarlo, però sicuramente sono cose che fanno girare le scarpe. Sì, che non sia un modello di riferimento è oggettivo, che non si possa caricare sulle sue spalle anche il fatto di essere dei modelli di comportamento, io lo penso sinceramente. Io credo che sarebbe ora di smetterla di avere i personaggi dello sport o dello spettacolo come modelli di riferimento, no? nel bene e anche nel male. La società crescerebbe indubbiamente se non avesse per modelli queste persone, e se ma è chiaro che finché il meccanismo è questo, chi sta alla ribalta qualche responsabilità in più la dovrebbe sentire. Nel caso di Balotelli sarebbe sufficiente che Balotelli sentisse le responsabilità che ha nei confronti di se stesso, innanzitutto, della società che gli dà lavoro e lo paga, di un allenatore come Mancini, che diceva bene, poi non lo cito più, Gabriele Romagnoli, beh, insomma, il vero padre putativo di Balotelli è stato Mancini. Ve ne leggo ancora un pezzetto, dai, perché anche questa è troppo bella, anche perché racconta bene come è nato questo rapporto. Purtroppo Mancini non ha, ricito, purtroppo Mancini non ha fatto venire a Balotelli la voglia di essere una persona migliore, ed è un peccato per entrambi. La scommessa dell'allenatore è cominciata tanto tempo fa all'Inter, lo pescò Brusco tra i giovani, lo portò in prima squadra. Bello sforzo, si dirà, quello devastava campi, campo e difese. Ma Mancini andò oltre, lo investì, ci furono vigilie di partite importanti in cui gli consegnò la maglia da titolare e disse ai senatori: le punizioni, i calci d'angolo li tira Mario. E mi sembra un ricordo mica da poco, perché cioè, cosa ha fatto Mancini per questo giocatore? Che cosa doveva ancora fare? E questo lo ripaga a sta maniera, e addirittura esce dal campo in quella maniera provocatoria, a gambe larghe, dondolando, come se uscendo lui dovesse finire la partita. Io vorrei sapere che cosa gli ha detto Mancini in faccia, e qualsiasi cosa gli abbia detto moltiplicherei per tre e sottoscriverei. Giuliano, Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Galazzini, senta, vorrei fare due domande, una sulla Juventus e una sull'aspetto un po' burocratico. Sulla Juve, se lei, visto che a Siena credo Conte ha fatto abbastanza bene, si aspettava con Conte una Juventus così, perché mi sembra che faccia molto bene la Juventus. E quella sull'aspetto burocratico, tempo fa il suo collega partecipò a una riunione tra calcio e politica, dove venne fuori il fatto di poter fare i giocatori, quelli giovani, apprendistato. Sì, scusi un attimo, chi sarebbe il mio collega? Non ho capito nulla. Bellinazzo, mi sembra. Bellinazzo? Bellinazzo, scusi, ecco. Sì. Tempo fa partecipò a una riunione, l'ascoltai per radio, che venne fuori l'ipotesi di mettere nel calcio giovanile quelli apprendistato. Nell'ipotesi che venga fuori una cosa così, potrebbe una società tirar fuori un ragazzo nel cilindro, anche come Ballotelli, Giovinco, addirittura Bergomi, che a 18 anni vinse i mondiali, sotto contratto apprendistato, no? Va un po' a cozzare con la legge Bosman una cosa così? Ho l'impressione che ci sia che lei abbia messo insieme un po' di ingredienti che non so quanto possano stare insieme. Posso fare, anziché risponderle io, che non sono davvero all'altezza, posso girare il suo quesito a Marco Bellinazzo e alla prima occasione in cui tornerà a trovarci, che potrebbe anche essere molto presto, per esempio un saltino domani, potrebbe essere non una cattiva idea, magari glielo sottopongo. Grazie. Marco ha chiamato da Genova, buongiorno. Salve, buon pomeriggio. Dica. Innanzitutto complimenti per tutta la trasmissione, perché io sto lavorando e da stamattina che la seguo e mi faceva piacere intervenire anche su delle altre cose forse più importanti del calcio, ma non sono riuscito a prendere la linea. Senza dubbi più importanti del calcio. Io innanzitutto mi sembra che, parlando di Balotelli e forse anche di altri, specialmente anche Cassano, io penso che questi due ragazzi qua abbiano già avuto moltissime occasioni date da grandi allenatori tipo Cappello, tipo Mourinho, tipo, cioè, mi sembra che l'abbiano fallite tutte e vedo nel campionato italiano, secondo me, molti attaccanti, addirittura anche di B, che non dico che, come dice Prandelli, che ha bisogno di stage, forse gli stage bisognerebbe convocare anche magari qualche attaccante di B, vedi Immobile, vedi. E poi in Serie A abbiamo un attaccante come Di Natale, che ha fatto 3 volte il capocannoniere, quindi non lo so, io se devo andare agli europei, dando sempre fiducia a queste persone qua, che siamo a 3 mesi dagli europei, e comunque non mi hanno ancora dimostrato niente, anzi c'è sempre da lavorare nemmeno quegli altri, però Marco, cioè, questi ti dimostrano, se non altro questi hanno dimostrato che se ci avessero la zucca centrata al posto giusto potrebbero garantire non garantisce nessuno, ma insomma potrebbero darti qualche garanzia in più, invece così è sempre un'avventura. Senta, a proposito di europei e di papabili, Salvatore Sirigu, è bella questa storia del portiere del Paris Saint-Germain, che come sapete arriva dall'Italia, no? Perché più italiano di Salvatore Sirigu, insomma, no. È la rivelazione, è diventata la rivelazione della stagione parigina, non solo perché è sempre, leggo dal sito, da un sito francese, non solo perché è sempre determinante tra i pali, e anche l'altro giorno ha salvato il pareggio del Paris Saint-Germain, la vittoria del Paris Saint-Germain dal pareggio del Marsiglia nel finale, con una con una parata strepitosa, sempre ottimi voti in pagella, è il miglior portiere secondo l'equipe di tutto il campionato, ma in più è molto apprezzato per il suo stile, perché è sempre disponibile, è sempre sorridente, a suo agio col francese, insomma è diventato anche un idolo televisivo, un idolo di trasmissioni televisive dedicate al calcio, anche perché conosce benissimo il francese e quindi alle domande dei giornalisti indigeni, no? Risponde sempre a tono, risponde con proprietà di linguaggio e tenendo loro testa, perché per esempio domenica un giornalista dell'Equipe è stato un po' polemico nei confronti del Paris Saint-Germain e lui col suo francese elegante l'ha rintuzzato e comunque ha preso le parti di Ancelotti e della sua squadra. C'era Nicolò Rinaldi in regia, c'era Franco Piantanida in redazione, c'era qualche invasore, incursore di troppo nel display degli SMS. Io mi auguro che gli sia passata la voglia, insomma, o che comunque tutto questo rientri, no? Questa smania, questa mania di protagonismo ad ogni costo. Buon pomeriggio a tutti.